ci dedicheremo per ora, dopo averla salutata, ci dedicheremo invece a un'analisi qualitativa di quella piccola nicchia invece di famiglie italiane in cui il figlio è magari addirittura più ricco del genitore, ma da quella casa non si schioda. Grazie dottoressa, arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci. Salve. Arrivederci. Ecco, ci tenevo che la Sabadini riattaccasse prima di dire la scemata di raccolta dati che vogliamo fare. Noi chiamiamo a raccolta all'800 555 161 i genitori, i mamme, le mamme, i babbi o i mammi e le babbe, come diavolo si chiamano, che hanno in casa un figlio che guadagna bene più di loro. Sì? Che potrebbe tranquillamente andarsene e comprarsi un appartamento con un mutuo sopportabile, ma che ha scelto di rimanere lì nel tinello di casa. Non se ne va, la sindrome Tanguy all'800 555 161. È ricco sfondato, ma di qua non lo schiodiamo. 800 555 161. Le permanenze. Già spiegato, quando c'è il gol poi c'è il replay. Scusa, non ho sbagliato. Pronto? Pronto, buonasera dottori. Buonasera mamma. Buonasera, dica pure ascoltatrice. Allora, grazie. Io ho un figlio che ha 30 anni. Sì. Ed è ancora in casa con noi, è laureato, guadagna bene, però vive ancora con noi. E dà segni di volersi schiodare o è proprio addivanato senza futuro? Al presente è ben sistemato. Ben sistemato. A casa nostra. Che lavoro fa? Quanto guadagna? Quanto porta a casa al mese, grosso modo? Sui dai 1.500 ai 2.000 euro. Sì, vabbè, caspita. Lavoro stabile? Sì, stabile. Cioè, sì, assunto a tempo indeterminato? Sì. È stato l'ultimo in Italia, frate. Ma con delle raccomandazioni che avevate in famiglia o ha vinto un concorso regolarmente? No, è stato assunto dopo una borsa di studio. Ma in che città d'Italia? A Torino. Caspita. Ma anche ha una fidanzata? No. Ai. Come mai? Mancando quella, persiste a casa nostra. Senta, contribuisce almeno alle spese? Mi caccia quei 300-400 euro per tutte le cotolette che si mangia. Sì. Se è necessario, sì. Ma devi chiedergli tu e lui fa delle scene? No. Contribuisce spontaneamente. Quanto più o meno tira fuori per il vitto e l'alloggio in questo che non è un albergo, lo ricordiamo, è una casa? Ma 200-300 euro, dipende. Ah, vabbè, non è... 200-300 euro se ne può parlare. Senta, è mai capitato, un po' delicata, però insomma, che lui porti a casa delle ragazze? No. Ma perché tu non gli hai mai dato la chiave della sua stanzetta e potresti irrompere per vedere cosa fanno? Una sua scelta. Può darsi anche, va bene. Grazie, ciao. Una mamma disperata. Un buon partito, sì, stai ipotizzando la scelta omosessuale del figlio. No, voglio dire, magari ci può essere anche quello. Pronto? Angela, buonasera. Buonasera, Angela. Io telefono da Imola e anch'io ho un ragazzo in casa, 31 anni. 31, sì. Lavora a tempo indeterminato, guadagna bene, più di 2.500, ha la macchina aziendale. Più di 1.600, ha la macchina aziendale, caspita. Il telefonino è pagato dalla ditta, pochissime spese. Ma cosa fa? Lavora per l'industria delle armi? Che lavoro fa? Nel commerciale in una cooperativa ceramica qua di Imola. Ah, caspiterina, assunto quella a tempo indeterminato. Quella grande cooperativa di ceramiche. Ha lavorato prima per 10 anni a Valtour senza fare niente, non si è mai laureato. Ah, c'è un po' il cascamorto nei villaggi. Esatto, difatti adesso lui però è pieno di fidanzate, a differenza dell'altro ragazzo. Vabbè, lei si sta facendo grossi. Le porta tutte in casa, me le fa conoscere successivamente, non contemporaneamente. Successivamente. Cioè, in che senso? Contemporaneamente sarebbe come... 4 mesi come una, Berlusconi, poi dopo un'altra, non mai. E mi dice, mamma, cedimi la tua camera, perché io sono divorziata, quindi posso andare a dormire nella cameretta. No, come cedimi la tua camera? Ma che roba terribile! E lui lo fa in qualche full talamo coniugale. Ma abbiamo smitizzato questa cosa. Che roba tremenda! Ma scusa, e tu dormi nella sua cameretta con il poster di Che Guevara? No, lui ha James Dean. James non Dean, è molto con il poster di James Dean. Okay. Vabbè. Senti, ma è da segni, nonostante... questo turbignon di donne che neanche il premio è Berlusconi, dà segni di voler levare le tende? Assolutamente no, perché lui è sicuro che non troverà mai una moglie che gli prepara, che lo sveglia con la radio, con la spremuta. E la pappa della mamma, ma vogliamo dire no, quanto è buono. No, io cucino male, però cucina i suoi tempi, non mi faccio mai dare una lira, quindi... Caspita. Faccio una concorrenza spietata a qualsiasi famiglia nuova. Angela, noi ti auguriamo, come dire, di trovare presto una nuora che aggradi al figlio. Angela, però, dicela tu soffriresti terribilmente se lui se ne andasse con un'altra donna. No, io faccio il tifo perché lui la trovi, ma non esiste. No, non anzi, potremmo dire in giro se c'è una ragazza che se lo vuole. Disperato appello. Mi sembra un ottimo partito. Biondo o moro? Biondo, bello. Bello e biondo, bello. Grazie. Molto simpatico, dai. Perfetto, grazie, ciao. In zona abbiamo detto Imola. Imola, sì. Un grande impiego alla SACME o come diavolo si chiama. E ce ne sono altri di questi drammi. Saramica? Sarà mica la mamma di Corona dicendo che mio figlio è bravissimo, non lo vedo da un mese. Ma no, pronto! Pronto! Buonasera signora. Buonasera. Mamma di che città? Di... Ancona. Ancona. Sì. Che cosa abbiamo in casa signora come abbiamo parassita? In casa un ragazzino di 38 anni. 38 anni, giovane. L'ultima volta che è uscito è stata alla gita delle medie signora. No, qua... Ho sentito altre cose, forse stanno anche un po' peggio. Ah, caspita. Lui guadagna bene, un bel lavoro? Sì, un bel lavoro. Tipo? Tranquillo. Ma forse si sta bene a casa. No? Ecco, quanto porta a casa, signora? Non lo so. Signora, una mamma italiana che non sa quanto guadagna il figlio. Ma per lui ci ha preso, per DJ. Assunto a tempo indeterminato? Sì. Da quanti anni è assunto... No, ma lui ha un lavoro suo, partita IVA. Autonomo, insomma, non è un dipendente. Lavoratore autonomo, bella macchina. Quella no, non ha di questi problemi, non ha di queste necessità, no. Però ecco, la libertà. Scusi signora, è la palla è entrata un'altra volta nella porta di... Della Roma? Delle cose, ha segnato ancora la Roma? Sì, ma siamo impazziti, scusi signora. Scusi un attimo, però è che 3-1 per la Roma, ma non doveva vincere l'Inter lo quello scudetto stasera? È il portiere, quello dell'Inter. È stato trafitto 3 volte, Julio è disperato. Come ci credo, ma caspita, doveva essere la festa scudetto. Ti sembra uguale, ma è un replay, hai capito? Certo, te l'ho detto io. Te l'ho detto io, teniamo la accesa, poi tocca a me guardarla. Ma dimmelo, no? Scusi, signora. Segnato di nuovo la Roma. Senta, si diceva, 38 anni, fra un po' va in pensione ma perché non se ne va? Perché non... E io questo che non riesco a capire. Ma glielo chiede, gli dice, quando... ma io sto bene qui. Dice anche ti voglio tanto bene o... No, quello non lo dico. Quello no. Però dice se vado via ti dispiace. Ragazze, donne. Sì. Le porta e si fermano per la notte. No. È un tutto personale, tutto suo, tutto privato, tutto riservato, tutto. Ma c'ha una fidanzata stabile adesso? Dorme mai fuori la notte o? No. Però non torna neanche mai con gli abiti macchiati di sangue. Potrebbe essere un serial killer. È meglio. Dicevo per assicurare la signora. Certamente. Signora, ci sembra un altro buon partito. Se ci fossero ascoltatrici all'ascolto, possono mandare un'email a caterpillar@rai.it. Grazie. Ecco, se c'è qualche buona persona. Grazie. Arrivederci. L'ultima mamma all'ascolto. Pronto? Signora? Allo? Pronto, è il servizio, vi sistemiamo noi il parassita di Radio 2. Pronto? Direttore Valsonia, guardi che è un'idea per la trasmissione. Sì, mi sento. Sì. Sono una mamma di Macerata, interista. Mamma interista. Sa che la sua squadra ha perso, si consoli non con l'alcolismo. Pazienza, una ci può stare. Ma dai. Intanto ci sono altre partite, ecco, altre signora, giornate. Ci dica ma allora, il suo dolore è un altro. Sì, ho un figlio di 27 anni, fa il camionista. Vabbè, un bambino a 27 anni. Sì, è un bambino, però se ne dovrebbe andare. Ci aveva pensato poco tempo fa, voleva acquistare una casa. Poi ci ha ripensato. L'unica cosa è che lui porta il suo bel mucchio di panni da lavare. Sì, la mamma lava, la lavatrice quello... e poi la mamma stira. Pazienza. Ha una ragazza. Sì. A lei piace, signora? Non la conosco. Come? Non le piace la ragazza? Non la conosco. Ma perché non gliel'ha ancora fatta conoscere? E non me l'ha fatta conoscere, quindi non so. So che c'è una ragazza che lui va a trovare dorme anche fuori ogni tanto? Sì. Dorme anche fuori anche per lavoro lui. Però dorme anche da questa ragazza. Questa ragazza vive da sola o... è fuori per lavoro questa ragazza, è fuori lui non ne parla, ma lei, raccogliendo una serie di indizi, ha un quadro completo della situazione, sa tutto. Esattamente. Però, sa tutto. Punto interrogativo. Sì. Punto interrogativo, qua. Ah. Signora, quanto guadagna al mese? È circa sui 1800. 1800, caspiterina. Insomma, guadagna bene, sì, sinceramente. Va bene. Ha cambiato l'auto, sì. Quindi deve pagare l'auto, ovviamente. Vabbè, quella ci vuole. Una signora, noi le facciamo i nostri migliori auguri. Va bene. Va bene, grazie. Arrivederci. Grazie. Che colore è la Volkswagen Plus? Non ce l'ha detto, volevo il quadro completo. Vabbè, è metallizzata? Capire, non lo so se è metallizzata o no. Adesso ma ti spiego. È uno sport, 11 contro 11. A me non piace il calcio, lo sai. E non può tirare. Solo il basket, mani. Il calcio per me è uno sport minore, non mi interessa. Vabbè, minori o maggiori, figli, tutti noi siamo di un dio minore e torneremo a onorarlo domani alle 18. Arrivederci, adesso arriva il giornale radio, questa sera c'è Cater Sport. Grazie, arrivederci, ciao, domani.